Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Prima di cominciare questa trasmissione, io vorrei ricordare una persona che stamattina sarebbe potuta essere di fronte a quel vetro. E Fabio, che ora non c'è più. Sii in pace, Fabio. Bene, cominciamo questa trasmissione in cui parleremo di scienza, il rapporto della scienza con il cibo, quindi con la cucina, con i prodotti, con l'agricoltura. Abbiamo con noi Davide Cassi, che è docente di fisica della materia all'Università di Parma, e Dario Bressanini, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali dell'Università dell'Insubria a Como. Bene, tra l'altro, oltre a essere due docenti, uno di fisica e uno di chimica, sono due grandi esperti di cibo e di gastronomia, hanno scritto libri anche importanti. Bene, Dario Bressanini l'abbiamo sentito un paio di settimane fa su un libro, La scienza della pasticceria, mentre Cassi anni fa ha scritto Il gelato estemporaneo, quindi sicuramente due addetti ai lavori, e la scienza è sicuramente un argomento che ci avvicina all'Expo, ai temi dell'Expo. E vorrei ricordare il numero, chi volesse intervenire, perché sappiamo che la scienza è presa così, come posso dire, quando si parla di cibo tutti mettono le mani avanti, pensano a un diavolo che entra in cucina, entra in agricoltura, quindi sicuramente potrà dare adito anche così a degli interventi del pubblico. 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, io vorrei partire da molto lontano. Vorrei partire dal 1891, quando Pellegrino Artusi uscì con un libro, allora, che non riusciva a far pubblicare, ma poi che è diventato un best seller, che si chiamava La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Allora, già questo termine, già nell'Ottocento, fine Ottocento, veniva accostato alla cucina. E poi ci sono stati vari passi, ma come mai l'Artusi nel 1800, già allora, si parlava della scienza in cucina, Cassi? No, buongiorno, buona domenica a tutti, perché l'Ottocento era un periodo molto diverso da oggi. Allora c'era una percezione molto positiva della scienza, erano tutti entusiasti nei confronti della scienza. Ricordatevi che qualche anno più tardi sarebbe arrivato il ballo Excelsior, che vantava i prodigi delle nuove tecnologie. E parlare di scienza era qualcosa di positivo. Questa accezione negativa della scienza nei confronti del cibo, della quotidianità e del mondo in generale è piuttosto recente. Arriva nel dopoguerra, arriva con la bomba atomica, con i primi inquinamenti massicci e con la scoperta che molte sostanze che erano state diffuse dall'industria, soprattutto dall'industria chimica, si erano poi rivelate nocive. Non so se vi ricordate la tragedia di Bhopal in India e Seveso, tanto per stare qua vicino, la diossina. Però all'epoca scienza era qualcosa di positivo, parlare di scienza faceva anche cultura, e notate che Pellegrino Artusi univa scienza ad arte. Arte nel senso di maestria, non nel senso di creatività, e se è ben chiaro, era la concezione di arte che vigeva ancora all'epoca, l'arte dell'artigiano, l'arte di colui che sapeva fare molto bene il suo mestiere, quindi l'arte del cuoco, come era inteso una volta. Dario, ma tu hai scritto proprio appunto recentemente questo libro, La scienza della pasticceria. Quindi diciamo che tu sei molto convinto che la scienza entri nel cibo in maniera molto, molto profonda. Sì, ciao Davide e buongiorno agli ascoltatori. Ma sì, in realtà la scienza è sempre stata dentro nel cibo e nei prodotti, nel modo di prepararlo. Io sono assolutamente d'accordo con quel che diceva Davide. Se noi andiamo in un supermercato, vediamo molti nomi di prodotti che in realtà sono nomi di scienziati. Liebig, per esempio, che noi associamo al dado, o all'estratto, sì, lo pronunciamo Liebig, era un chimico tedesco che nell'Ottocento ha studiato la chimica della carne. Non so, Van Houten è una marca di cacao. Era un chimico che ha scoperto il modo per estrarre parte del burro di cacao al cacao, e quindi fare il cacao amaro, con cui il cacao diciamo meno grasso, con cui possiamo fare la cioccolata. Quindi la scienza si è sempre interessata al cibo. È solo, appunto, come ricordava prima Davide, a un certo punto storico in cui le persone hanno cominciato, per vari motivi, a sospettare, a vedere un po' come pericolosa questa scienza, e quindi sembra che adesso questo ritorno della scienza in cucina sia una cosa nuova, mentre in realtà è una cosa che c'è sempre stata. A me fa molto piacere che si ritorni a parlare di questo visione scientifica del cibo. Ecco, ma quando si parla di scienza la gente immediatamente pensa a qualcosa di pauroso, pensa alla chimica. Ricordo quando il periodo in cui Striscia la Notizia fece quell'inchiesta sulla cucina molecolare, che sembrava appunto che fosse il diavolo. Ecco, perché questa reazione di fronte al pubblico, cioè quando si parla di scienza e si rapporta al cibo, all'agricoltura, c'è cioè questa reazione così negativa? È un prodotto dei tempi moderni, come dicevamo prima. Per molto tempo l'immaginario collettivo era convinto che la scienza avrebbe migliorato il cibo, e così è stato. Pensiamo alla tecnologia in enologia, che ci ha portato a dei vini che sono molto, ma decisamente molto migliori rispetto a quelli del passato. Poi a un certo punto sono arrivati i primi guai, perché in realtà il problema grosso dell'industria rispetto alla cucina è la conservazione degli alimenti. D'accordo? Questo è l'abisso che separa la tecnologia degli alimenti dalla cucina. Un alimento industriale deve essere conservabile. Siccome tu sai che tutti sapete che una maionese, se è fatta senza aggiungere nient'altro, non dura più di qualche ora o qualche giorno, se proprio vogliamo esagerare. Per riuscire a darle un tempo di vita sufficiente a portarla sugli scaffali dei supermercati è necessario applicare dei cambiamenti rispetto alle ricette originali. Il metodo più semplice era quello di aggiungere qualche ingrediente che la stabilizzava o la rendeva comunque più longeva. E questi erano gli additivi. Il concetto di additivo era questo. Nella legislazione passata si chiamavano additivi chimici, per cui hanno cominciato a collegare la parola chimica all'idea di qualcosa che andava in qualche modo a perturbare la ricetta originale, che non era più pura. Ma fin qua, in teoria, non c'è niente di male. Se la ricetta è buona e se non fa male, perché no? Il problema sono i costi, che per abbattere i costi hanno cominciato ad utilizzare additivi piuttosto pesanti, in quantità magari notevoli, che andavano poi a influire sul gusto, sulla digeribilità. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi con... Beh, il centro di gravità è un fatto anche fisico, no? Vero, Cassi? Assolutamente, hanno scelto una canzone adattissima. Volevo che tu continuassi, hai detto siamo arrivati a Striscia la Notizia, quel famoso momento appunto degli additivi. Ecco, insistiamo su questa parola, additivo. Additivo per la normativa è qualcosa che viene aggiunto alla ricetta originale per migliorarne le qualità, così industriale, chiamiamolo. Non è una definizione intrinseca, cioè capite, non è che noi possiamo, guardando la formula chimica o qualcos'altro di una sostanza, stabilire se è un additivo o meno, dipende dall'uso che se ne fa. Per cui è un additivo anche la vitamina C, che nessuno oserebbe dire fa male o è da evitare. Quindi tutto il malinteso di Striscia la Notizia si basa sul fatto che alcuni grandi cuochi si sono messi ad utilizzare nuovi ingredienti che per la normativa erano considerati additivi. Quindi è stata un'estrapolazione sbagliata, un falso sillogismo, chiamiamola come vogliamo. Capisci che la stessa sostanza usata da Ferran Adrià diventa un ingrediente innovativo e prezioso in cucina. Quindi dipende dall'uso che se ne fa. Lo stesso Ferrano una volta mi aveva detto, mi accusano di cose assurde. Io dico sempre, se mangiate una cattiva pizza, ve la dovete prendere col pizzaiolo, non con l'inventore della pizza. Bene, abbiamo capito appunto, questa battuta può servire per tantissime cose, ma io voglio tornare a Bressanini, perché il sottotitolo del suo libro La scienza della cucina è La chimica del bignè, vuol dire che nel bignè c'è la chimica. Beh sì, c'è la chimica in tutta la cucina e specialmente nella pasticceria, che secondo me è il campo della cucina che più si avvicina alla chimica, perché richiede molto più rigore e molta più precisione nell'esecuzione delle ricette e dell'ordine con cui si mescolano e si lavorano gli ingredienti. Quindi il sottotitolo è scherzoso, tra l'altro c'è dentro nel libro una ricetta anche dei bignè, ma è per spiegare per esempio perché bisogna seguire una certa tipo di preparazione, perché serve un certo tipo di farina, un certo tipo di lavorazione per creare poi questi dolci che devono formare una cavità interna. Quindi, che ci piaccia o meno, quando noi cuciniamo in cucina o facciamo una torta, stiamo facendo avvenire delle reazioni chimiche. Beh, tu parlavi di additivi, potremmo parlare di aromi, potremmo parlare di tantissime altre cose che fanno parte poi alla fine di un prodotto che viene comprato comunemente. Ci sono sempre delle grandi discussioni su questo, perché ora assistiamo a questo dibattito sull'olio di palma, per esempio, che si stanno raccogliendo firme, quindi è molto dibattuto. Ma un consumatore che va in un supermercato, prende diciamo qualsiasi tipo di prodotto, va a leggere queste etichette, ma secondo voi che siete degli esperti, ma sono comprensibili? Cioè si può capire diciamo quello che bisognerebbe lasciare sul tavolone del supermercato e quello invece che bisognerebbe portare a casa? Guarda, ci vuole una buona competenza per farlo, nel senso che quando si parla di queste sostanze che possono essere anche nocive, si trascura sempre l'aspetto fondamentale, che è la dose. D'accordo? La dose che fa il veleno, la dose che, se moderata e contenuta all'interno di certi limiti che più o meno conosciamo, non fa male, anzi ci dà dei piaceri sensoriali. La polemica sull'olio di palma mi lascia un po' perplesso, perché è una polemica sui grassi saturi. I grassi saturi in cucina si usano principalmente perché sono solidi alle temperature ambienti. Ora prova tu a farmi una pasta frolla senza un grasso solido, viene un'altra cosa. Per cui, se ci vogliamo godere il piacere della frolla come noi la conosciamo, abbiamo bisogno di un grasso solido. Normalmente il burro. L'industria si è messa ad utilizzare il grasso di palma perché costa meno e perché è un po' più stabile, nel senso che tende meno a dare odore di rancido, ad ossidarsi. Dipende da quanto ne mangi, come tutte le cose. Anche il cioccolato contiene una grandissima dose di grassi saturi. Tutti dicono che non dovremmo mangiarne troppo, però non vedo questa demonizzazione del cioccolato, meno male. Dario Bressanini, tu hai fatto la prefazione a un libro che ha fatto molto discutere, che era La scienza in cucina di Hervé Tis, che un po' ha segnato, come posso dire, una linea in cucina molto particolare. Questo personaggio è visto come posso dire, come dicevo prima, come un diavolo che fa emergere delle cose in cucina attraverso manipolazioni. Ecco, La manipolazione in cucina, la manipolazione attraverso fattori esterni al prodotto che viene usato, è frequente oggi? Ma allora il termine stesso manipolazione vuole dare un senso negativo, cioè una volta voleva dire semplicemente fare qualcosa con le mani, invece adesso quando si parla di manipolazione si vuole indicare implicitamente una qualche alterazione delle proprietà del cibo. Allora, come diceva Davide, noi aggiungiamo per motivi tecnologici una serie di additivi o di aromi che di per sé non sono necessariamente il diavolo. L'esempio che mi piace fare sempre è il glutammato. Glutammato di sodio è il sale di un aminoacido che noi produciamo e è presente in quantità enormi nel parmigiano reggiano, per esempio, o nel latte materno. Se viene aggiunto in piccole dosi, alcuni grandi chef lo utilizzano per creare degli effetti particolari, fare dei piatti particolari, può avere un senso. Nel momento in cui l'industria lo usa e ne abusa per coprire la carenza di qualità delle materie prime con cui va a produrre certe cose, non si deve dare la colpa al glutammato, ma si deve dare la colpa alla qualità scarsa delle materie prime, che però non è necessariamente vero. E questo porta a dei paradossi, per cui si vedono prodotti senza glutammato aggiunto dove in realtà il glutammato c'è, ma è nascosto dietro altre diciture, estratto di lievito, proteine idrolizzate, perché il ruolo del glutammato in alcune casi è insostituibile, come quello del sale. Ecco, stavo leggendo un SMS che dice basta con l'Expo. Beh, insomma, non l'abbiamo ancora iniziato, caro radioascoltatore, insomma, non direi che si può dire già basta ora prima di iniziare. Ecco, poteva essere una grande occasione, può essere una grande occasione di fare un grande dibattito su, appunto, sulle produzioni, sull'agricoltura, appunto sull'intervento della scienza in agricoltura, sulla scienza, sulla produzione. Cosa ne pensi, Davide? Ah, l'occasione potrebbe essere buona, però per fare un dibattito bisogna essere da entrambi le parti disposti ad ascoltare. E io purtroppo vedo ultimamente delle posizioni dogmatiche nei vari settori che dovrebbero intervenire a questo dibattito. E anche intervenire col parere serio e motivato di uno scienziato spesso non sortisce nessun effetto. Io ho provato tante volte, per esempio io non credo agli oroscopi, ho provato a convincere persone che ci credono della non veridicità degli oroscopi, ma basandomi su assunti scientifici non ce la faccio, perché sono convinzioni a priori queste. Io penso che purtroppo anche nel campo dell'alimentazione, della salute e della cucina ci siano molte convinzioni a priori. Tipo anni fa mi ricordo tante persone che non usavano il microonde perché pensavano che fosse una sorta di strumento del demonio. Adesso c'è in tutte le case. Eh sì, tanti strumenti, beh, non dimentichiamo il sifone, il pacco jet, tutti quelli che sono arrivati. Comunque ricordo 800 24 00 24, si vede che i nostri radioascoltatori sono di fronte all'argomento scienza, tacciono perché lo vedono sempre come un argomento chissà dove, ma in realtà poi la scienza è in ogni preparazione in cucina, vero Dario? Esattamente. Sia nel modo in cui noi produciamo e insomma, cuciniamo, ma anche nelle tecnologie. Faccio un esempio che a me piace molto, il caso dell'espresso. Noi siamo abituati ormai ad andare al bar, ordinare un espresso e lo associamo alla cremina che sta sopra il liquido nero. Bene, il caffè espresso nasce nel 1900 circa e significa fatto al momento, e non aveva la cremina perché le macchine all'epoca avevano una pressione del gas, del vapore, che non raggiungeva pressioni sufficienti per estrarre gli oli essenziali. L'invenzione delle prime macchine espresso che raggiungevano pressioni molto più elevate, che si usano ancora adesso, circa 9 bar, è dell'inizio del primo dopoguerra. A Milano un barista milanese chiamato Gaggia, che poi fonderà un'azienda, inventa una serie di pistoni che aumentano la pressione dell'acqua e del vapore. In quel momento nasce l'espresso moderno, quindi è una cosa relativamente recente ed è un'invenzione industriale frutto di una tecnologia, ecco, di una cosa che ormai fa parte della vita di tutti i giorni. Beh, Enzo da Vimercate, buongiorno Enzo. Buongiorno. Non faccio lo gnorri, come vedi, ti chiamo, quindi eccomi qua. Bravo. Dimmi. Niente, io ho mandato l'SMS. Sì, lo stavo leggendo, sull'olio di palma. Esatto, l'olio di palma è un olio saturo, che è un grasso saturo, che sicuramente potrebbe fare il caso di un sacco di alimenti che vengono irrorati da questo grasso a tutti i livelli, soprattutto a livello industriale. Ma il problema più grosso dell'olio di palma è la devastazione che provoca la sua estrazione. Se tu estrai l'olio di palma e lo fai a quantità industriali come lo fa l'industria, la terra si desertifica. Papa Francesco ha appena detto che dobbiamo essere custodi della terra, non proprietari. Questo è il messaggio che Francesco voleva dare, non quello di diventare proprietari e in nome di questo, in nome del dobbiamo sfamarli tutti, allora ogni mezzo è lecito, perché con questo criterio non siamo più rispondenti a quello che ha chiesto Francesco. L'olio di palma è uno di questi esempi, ce ne sono anche altri, però questo è quello che mi sento di dire sull'utilizzo dell'olio di palma. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Bene, riprendiamo. Allora, abbiamo sentito questo radioascoltatore appunto che contestava il discorso dell'utilizzo dell'olio di palma. Parlava di appunto di danni fatti alla natura. Ma posso rispondere io? Sì. Prima di tutto è correttissimo separare i due aspetti. Allora, la battaglia salutistica contro l'olio di palma ha poco senso, perché a dispetto del nome, olio è un solido e quindi è un sostituto del burro. Tutti i grassi alimentari contengono contemporaneamente sempre una percentuale di grassi saturi, anche l'olio d'oliva, ecco, è una percentuale di grassi insaturi. Il burro è prevalentemente saturo e quindi è solido, e così come l'olio di palma. Ecco, se fosse chiamato grasso di palma o burro di palma non avremmo questo tipo di cose. Quindi l'olio di palma non è un sostituto dell'olio extravergine. Se io voglio fare dei biscotti, dei frollini, storicamente sono sempre stati fatti con il burro, perché serve un grasso saturo. Nel momento in cui l'industria lo sostituisce per questioni di costo con l'olio di palma, è sempre un grasso saturo. E la frolla si fa con il burro. Se io non sostituisco l'olio di palma e lo faccio col burro, non è... è sicuramente più buona dal punto di vista gastronomico, ma non è più sana, perché quindi dal punto di vista salutistico non ha molto senso. La questione invece di tipo ambientale è corretto andare a indagare, ci sono degli studi che cercano di indagare l'impatto ambientale della deforestazione e così via. Anche qui però bisogna mettere le cose nel contesto di un'agricoltura globale, perché andare a mettere il dito in una singola coltura che viene fatta spesso nei paesi poveri è un po' così limitante, perché uno deve andare a vedere quali altre colture in una certa zona sono disponibili per chi deve tirare fuori del reddito, e andare a vedere se potrebbero essere più o meno impattanti. Quindi di sicuro il problema c'è, viene studiato, però è un po' semplicistico dire semplicemente viene deforestata, perché tutto quello che noi coltiviamo in quelle zone purtroppo deforesta la foresta vergine. Beh, ha scatenato un po' l'interesse di tutti i nostri radioascoltatori. Di fatto i piccoli produttori sono esclusi per gli alti costi, lo so per certo, di partecipazione. Caro Paolini, l'olio di palma è uno schifo dell'industria alimentare e bisogna avere il coraggio di dirlo. Bene, quindi, il burro è più buono, sì. Credo che anche Davide sia d'accordo. Quindi sicuramente, come vedete, vengono letti i messaggi, non è che vengono nascosti, non so per quale motivo. Sentiamo Angela da Bari, una nostra radioascoltatrice. Buongiorno Angela. Buongiorno, io sono pugliese e naturalmente produco olio extravergine d'oliva con spremitura a freddo. So bene che cosa si intende per un olio salutare, quindi l'olio di palma per me non dico che è tabù, per quanto insomma me lo propinano ad ogni cena al ristorante dicendo ma noi cuciniamo al naturale con l'olio di palma, vabbè, beati loro se che ci credono. Dunque niente, volevo testimoniare il fatto che sono rimasta allibita quando ho appreso qualche giorno fa che l'Expo praticamente dedicherà un solo padiglione al biologico, quando sì. Era un'ottima occasione per imporre la nostra identità alimentare che attraverso la globalizzazione stiamo perdendo, e quindi la pasta dovrebbe essere quella imposta da Bruxelles per il fatto che deve diventare la pasta molle, quindi noi siamo anche produttori di pasta, insomma siamo un po' stufi di tutta questa ipocrisia. Io sono per l'Expo, ci mancherebbe altro, ci andrò, verificherò, però come al solito temo di avere una grossa delusione, ecco, questo sì, per le varie imposizioni europee. Le faccio una domanda comunque, visto che si parla di olio. Quest'anno è stata un'annata disastrosa per l'olio, sono andati? I raccolti sono andati un pochino scarsi, però un'ottima qualità, perché come al solito se si vuole avere l'ottima qualità, certo, non si può andare sulla grande, grande produzione, questo in tutti i campi. Comunque io sono spaventata dall'Europa, per quanto l'ho votata, l'ho voluta, ho 50 anni, quindi ho anche insegnato e quindi sono proprio propensa all'Europa, però sinceramente ci sta ammazzando. Beh. E questo gli italiani l'hanno capito, sarebbe ora che Bruxelles la finisse anche di imporci la sua globalizzazione alimentare. Ogni paese deve avere la sua identità alimentare, non ci può imporre. Beh, su questo stiamo morendo per il latte, per l'olio, per tutto. Quindi, insomma, guardi, su questo io sono completamente d'accordo con lei. Non sono un po' meno d'accordo su questo discorso che tutto deve essere bio, perché io da 30 anni giro l'Italia alla scoperta di piccoli produttori e posso garantire che molti di questi non sono bio, i prodotti sono altrettanto sani e sono anche buoni. Quindi il marchio va bene, però c'è gente che produce naturalmente biologico senza essere biologico. Naturalmente biologico vuol dire con tutti i crismi del biologico, anche perché ultimamente, se apriamo i giornali, vedo che di scandali ce ne sono continuamente, quindi bisognerebbe che ci fossero forse controlli molto più stretti e non da parte di chi viene pagato per fare poi i controlli. Quindi credo che i controlli dovrebbero essere fatti da organi esterni completamente. Bene, detto questo, abbiamo Daniele da Parma, uno studente. Sentiamo uno studente cosa ha da dirci. Pronto, Daniele? Pronto. Prego. Ci sono? Sì, sono ci sei. Mia? Sì, okay. Pronto, via. Bene, no, mi sono sentito chiamato in causa perché sì, sono uno studente, ma il serale dell'alberghiero. Quest'anno è il quinto anno, quindi avrò l'esame di maturità, la mia seconda maturità, diciamo. E quindi mi sono sentito in causa perché uno degli argomenti sarà proprio Pellegrino Artusi con le sue, diciamo, 800 ricette. E in un'edizione del 1970 Camporesi, sì, che è un critico, scriveva che la cucina tradizionale italiana era morta. C'era l'industria che stava prendendo il sopravvento, e quindi lui sostiene in uno dei suoi scritti che la cucina tradizionale italiana era morta. Mentre oggi vediamo che le cose per fortuna non sono andate così, c'è ancora tantissima tradizione, tantissima biodiversità in Italia, e l'argomento della tesina sarà proprio questo qua. Cioè, bene, ma la tesina con chi la discute? Con Davide Cassi? Davide? Non lo so, ma potrebbe darmi una mano a scrivere. Prego, Davide. Sì. Ma l'osservazione, si interpreta bene l'osservazione di Camporese, è stata poi portata avanti. Di fatto la società che ha prodotto l'Artusi non esiste più, ma ci sono tanti esempi. Io ragionavo anche solo qualche giorno fa che se 10 anni fa mi avessero detto che avrebbero venduto nei supermercati la pasta asciutta già cotta, condita e poi surgelata, avrei risposto: ma siete pazzi, in Italia questo non può accadere. Invece è accaduto. È accaduto che compriamo l'insalata già lavata in busta, è accaduto che cucinare non è più un atto quotidiano delle case e delle famiglie, è accaduto che la tradizione della tecnica di cucina non si passa di madre in figlia, anzi si impara magari dai libri, dalle trasmissioni TV, dai blog oppure da YouTube. Non è più l'Italia che ha prodotto questa tradizione, la si riscopre, ma dove? Nei ristoranti, nelle trattorie, mentre la tradizione è nata nelle case, non dobbiamo mai scordarcelo. Ma io voglio tornare sulla radioascoltatrice produttrice di olio d'oliva extravergine, perché il discorso della Comunità Europea è perfettamente vero, anche gli ultimi provvedimenti che ha emanato veramente sono, credo, impossibili da poter essere così seguiti. Ma devo altresì ricordare una cosa, che gli scandali dell'olio d'oliva extravergine, così ben messi in evidenza da un giornalista americano che io già più volte ho citato, Mueller, cioè sono causa nostra, perché gli scandali dell'olio avvengono in Italia ad opere di italiani. Quindi sicuramente, appunto, su questo la Comunità Europea non c'entra assolutamente, su tutta una serie di disposizioni che hanno ridotto, diciamo, la capacità di produrre le piccole produzioni, con delle norme già partite nel 1993 che probabilmente erano assurde, erano troppo costringenti. È vero che i paesi nord europei hanno influenza su molti provvedimenti che colpiscono i paesi mediterranei, è vero tutto, però attenzione, cioè prima vediamo anche cosa succede in casa nostra, a cominciare dall'olio. Tu volevi aggiungere qualcosa, Dario, su questo discorso di Camporesi e della fine della cucina italiana? Ma la cucina continua in qualsiasi paese del mondo a evolversi. Quindi questa idea di una cucina statica che è sempre stata così, con le ricette che sono sempre state così, non ha molto senso. Cambiano le ricette perché cambiano i modi di cucinare e arrivano dei nuovi prodotti. Ci sono delle ricette che cambiano, se uno le va a vedere nel corso dei secoli o dei millenni, cambiano completamente, diciamo, identità. Il bianco mangiare in alcuni ristoranti lo servono come dolce, come dessert. Beh, il bianco mangiare è un piatto medievale che veniva dato ai malati e conteneva il pollo, il petto di pollo, era fatto di tutti alimenti bianchi, perché si pensava che il bianco avesse un qualche potere per curare i malati, per cui era fatto con dello zucchero, con del pollo, con del riso, era tutto bianco. A un certo punto ha perso il pollo e si è trasformato in un dessert. Ecco, vista su una scala temporale di secoli, la cucina è in continua evoluzione, per cui non ha senso dire che è morta, continua a cambiare. Sentiamo Stefano da Roma, anzi Luisa da Modena prima. Luisa da Modena, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Sta parlando viva voce perché si sente tuonare il suo... Prego, prego, provi. Senta, io ho visto ieri sera sul Fatto Quotidiano in prima pagina Carlo Petrini che dice appunto dove sono i contadini, i formaggiai, i pescatori, no? Dove sono l'Expo? Lui dice, non so se lei è al corrente di questo intervento che ha fatto Petrini. Sì, mi dica, arriviamo in fondo. Lui appunto si dice, se no noi costruiamo sulla sabbia, se sono assenti nell'Expo questi piccoli produttori, ecco, non ha senso, no, l'Expo, se non si dà spazio. Allora, io ho saputo da un'amica carissima che parteciperà all'Expo come servizio veterinario, sì, insomma, che i costi per partecipare sono altissimi. Per i produttori e per i presenti. Senta, io però mi riferisco, voglio rispondere alla prima parte della sua domanda. Io sono completamente d'accordo con Petrini che ci dovrebbero essere i macellai, i pescatori, i casari, invece degli chef. Su questo sono completamente d'accordo, credo quindi è inutile aggiungere qualcos'altro, in maniera categorica. Ma continuiamo, sentiamo anche Stefano da Roma. Buongiorno Stefano. Buongiorno Davide, buongiorno anche ai suoi esperti. Io volevo intervenire parlando della questione salumi. Spesso volentieri al supermercato si va alla ricerca dei salumi di qualità, però ahimè quando uno legge le etichette i contenuti di nitriti, nitrati sono sempre presenti, insomma, e questa è una bella difficoltà. Non capisco perché i grandi produttori non inseriscono la vitamina C, che in qualche piccolo produttore invece viene usata magari in sostituzione di qualche di questo additivo. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Credo che sia una risposta per tutte e due questo. Prima inizia tu, Davide, poi possiamo, perché è importante questo. È importante il fatto che il motivo per cui si usano questi, chiamiamoli pure additivi, nella produzione dei salumi, è che la gente ormai bada più all'aspetto visivo che non al gusto, perché l'unico vero motivo è che servono a mantenere la carne rossa. I salami contadini, che ho avuto la fortuna di mangiare e mangio ancora, sono marroni, perché stagionando è quello che accade normalmente. Se noi vogliamo la carne di bell'aspetto, dobbiamo pagarne le conseguenze sotto altra forma. Poi è chiaro, come antiossidante la vitamina C va benissimo, ha dei costi completamente diversi, se la usiamo sotto forma di acido va anche ad influire sul sapore, si può usare sotto forma di sale, però di nuovo i costi non si abbassano. Quindi se la gente rinunciasse un po' di più a questa cucina delle apparenze e badasse di più al gusto, probabilmente potremmo fare a meno di molti conservanti. Sì, per quel che riguarda i nitriti e i nitrati c'è sicuramente una parte estetica. Alcuni salumi però, per esempio il prosciutto crudo, non ha bisogno di nitriti e nitrati perché è un pezzo intero e basta il sale. In altri casi però, e penso per esempio alla mortadella, i nitriti hanno, che si usano comunque in basi molto, si dovrebbero usare in dosi molto piccole, hanno una funzione antibotulinica, cioè non esiste tuttora non è mai stato trovato una sostanza che impedisca totalmente lo sviluppo del botulino, e in quel caso la vitamina C aiuta a ridurre le dosi dei nitriti, ma non possono essere eliminati totalmente, a meno di accettare un piccolissimo rischio, che però esiste, di contrarre il botulino. Prego Marina Di Asti, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Mi sono posta ultimamente qualche domanda a cui non sento risposte arrivare da nessun dove. L'apicoltura sta subendo delle perdite gravissime. Non c'è miele di qualità se non cose che definire miele sarebbe... Ma non so neanche come descriverlo, non è miele. Quando le api verranno protette nei confronti degli stessi apicoltori? Vengono massacrate di antibiotici, di antiparassitari. L'agricoltura con tutto quello che riversa non fa che peggiorare chiaramente questa situazione. Le api sono la salvezza del pianeta, non solo dell'Italia, che vive questa linguetta di terra che neanche potrebbe nutrirci. Guardi Marina, se coltivassimo decorosamente forse nutrirebbe 15-20 milioni di persone. Guardi Marina, salviamo almeno le pianure dalle biomasse. La interrompo. Sono tanti, perché gli argomenti, lo comprendo. No, la interrompo perché io 2 mesi fa ho fatto una trasmissione su Radio 24, quindi su questa trasmissione, perché le api muoiono. Quindi ho sentito moltissimi esperti, ho sentito Greenpeace, ho sentito un po' tutti proprio su questo dibattito che è stato molto interessante. Abbiamo trattato questo argomento anche perché il 35% del cibo che viene prodotto è opera delle api, quindi sicuramente è un argomento molto interessante che ha molte sfaccettature. Immagino che lei volesse arrivare poi in fondo ai pesticidi, quindi è un altro argomento, un tema molto discusso, e quindi si potrebbe anche riprendere proprio andando incontro agli argomenti dell'Expo. Ma sentiamo ora Francesco dalla provincia di Latina. Buongiorno Francesco. Buongiorno, io sono un produttore di olio extra. Ho sentito l'intervento della signora prima, mia collega, che condivido diciamo quasi totalmente, anche se sul discorso della quantità ci sarebbe da fare un piccolo appunto. La signora dice non si può fare tanta quantità con la qualità, dipende come si lavora, dipende cosa si intende per quantità. È chiaro che se parliamo a livello industriale sono pienamente d'accordo con la signora. All'altra cosa a cui anche volevo chiedere era, parlando di conservanti, è vero che c'è un limite dato dalla legge, sotto il quale diciamo la legge ci dice non ti fa male, ma se io mangio l'antipasto dove ci sono i conservanti, il primo piatto dove ci sono i conservanti, il secondo dove ci sono i conservanti, il contorno e così via, accumulo, presumo che è di accumulare una quantità di conservanti nel mio corpo che bene non mi fanno. Dario, vuoi rispondere tu? Beh, direi che se uno mangia il primo, il secondo, il contorno tutti i giorni precotti, forse è il caso di cambiare tipo di alimentazione. Però, a parte la battuta, quei limiti non sono da considerare limiti di pericolo, per cui se si superano allora immediatamente finiamo all'ospedale. Sono limiti di sicurezza che vengono stabiliti dall'EFSA in base a una alimentazione, a una dieta media, per esempio, dell'europeo, e sono circa 100 volte inferiori ai limiti, appunto, che potrebbero eventualmente dare dei problemi. Però ancora una volta il problema è l'alimentazione globale, è il regime alimentare che uno segue che deve essere bilanciato, per cui se uno mangia piatti pronti tutti i giorni mi preoccuperei non tanto dei conservanti ma di tutto il resto, della mancanza per esempio di tante frutta fresca, verdura fresca e così via. Bene, sentiamo, abbiamo tante telefonate. Graziella da Milano, buongiorno Graziella. Buongiorno, sono intervenuta perché l'altro giorno ho sentito, siccome sono i coltivatori diretti che per il latte stanno brontolando perché viene pochissimo e arriva molto latte da tutta l'Europa, e a un certo punto uno ha detto attenzione che c'è del latte che addirittura non c'è neanche un goccio di latte ma è tutto polverina. Basta. A questo punto sono rimasta allibita da questa cosa. Beh, io credo, non lo so, cioè tutto è possibile in questo mondo di sofisticazione d'alto, però che sia tutta polverina il latte che viene messo in vendita, in circolazione magari come latte fresco, beh insomma devo dire che potrebbero essere anche chiacchiere come quelle che si dice che il vino, molti vini sono prodotti con le polverine. Oddio, dai Wine Kid di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa è anche vero, ma almeno lì c'è il mosto, qui addirittura tutta polverina. Cosa ne pensate, si può produrre tutto latte con polverine? No. Non credo che sia poi così conveniente alla fine, no? Perché queste polverine di fatto si estraggono dal latte all'inizio, può servire a conservarlo di più. Però, insomma, se rispettano la legge, credo che appunto, non sempre se rispettano la legge, però come dicevo, cioè, il latte fresco costa purtroppo per gli allevatori costa talmente poco che non credo abbia senso fare una cosa di questo genere. Sentiamo Alberto da Firenze. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno. Senta, io volevo aggiungere una cosa che mi sembra che finora non sia stata detta. Praticamente dentro i salumi, tra gli additivi, spesso sono presenti latticini, oppure ad esempio estratti dalla lavorazione del latte, come i caseinati. Ora, se una persona che ha un'intolleranza al latte o ai latticini assume un salume di questo tipo, può avere anche delle manifestazioni patologiche abbastanza noiose, in alcuni casi anche abbastanza forti. Questa cosa è da dire perché ci sono produttori che, mettendo questi caseinati, aumentano il volume e diminuiscono la quantità di suino effettivo che mettono nel salume. Cassi, tu pensi che anche questo può essere possibile? Come diciamo, è evidente che qui stiamo parlando di tutti di evasioni e di sofisticazioni e di altro, quindi io non posso assolutamente giurare che questo non avviene, però credo che insomma in questo paese un po' di controlli ci sono, addirittura abbiamo... È vero che abbiamo i migliori controlli d'Europa, così siamo giudicati, ma poi il problema è che mancano i controllori, questo è il vero problema dei nostri controlli sanitari, però insomma siamo tutto borderline. Sì, noi abbiamo degli obblighi riguardo alle etichette, in modo tale che il consumatore che ha dei problemi alimentari si possa informare correttamente guardando l'etichetta. Se poi c'è qualcuno che non mette in etichetta le eventuali sostanze che aggiunge, chiaramente viola la legge. È diverso il discorso dei ristoranti, questo obbligo di dichiarare eventuali allergeni nei menù. Però abbiamo parlato lungo, devo dire che dopo un mese che c'è questo provvedimento in giro, vedo che nessun ristorante lo applica e tantomeno qualcuno lo applica a voce, come poteva essere una via di mezzo, obbligata, insomma, perché è difficile che un'osteria in un paese sperduto si possa permettere un esperto che possa fare questo, almeno a voce. Sentiamo l'ultima telefonata, Silvia da Bologna. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Veloce Silvia. Io sono un apicoltore, mi sono molto arrabbiata per quello che ha detto quella signora di prima. Sì. Nella mia zona, io parlo della provincia di Bologna, non degli altri posti, gli antibiotici non si usano e i controlli sono numerosi ed efficaci fatti dalle USL. E gli sciami che per caso ci scappano e si infilano in una casa, in un albero così, nel giro di 2-3 anni muoiono, perché ci sono queste malattie delle api arrivate dall'Asia, come la varroa così, che le uccidono. Noi le aiutiamo le api, non le massacriamo. Bene, grazie Silvia, abbiamo finito questo giro. Abbiamo tralasciato, è stata un po' la convulsione della trasmissione, due argomenti molto importanti verso l'Expo, ma torneremo su questi argomenti. Uno è l'agricoltura biodinamica, di cui tanto si parla, e l'altro sono gli OGM, quindi sicuramente ne riparleremo prossimamente. Bersanini, Dario, tu che sai delle posizioni ben precise su questo, inviteremo altri ospiti che hanno altre posizioni, perché secondo me è un dibattito molto ma molto interessante, appunto, che si avvicina all'Expo, e soprattutto perché la biodinamica è stata fatta da un filosofo, non da uno scienziato, è stata inventata, quindi vedremo quali sono le peculiarità. Sugli OGM c'è un dibattito aperto, al punto che il Consiglio di Stato ha respinto recentemente appunto il ricorso di un agricoltore veneto contro la non sperimentazione, e anche su questo credo che si debba discutere, non tanto sull'applicazione o meno degli OGM, ma quanto sulla sperimentazione, secondo me ci sarebbe molto da discutere. Bene, grazie a Dario Bressanini, grazie a Davide Cassi, appuntamento alla prossima settimana, parleremo di spreco del cibo, quindi alla prossima. Un caro saluto da Davide Paolini.